Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria, in compagnia di Diego Manetti per questo consueto appuntamento il primo sabato di ogni mese, con il tentativo di entrare nel mistero della vita eterna. Attraverso questo percorso, pagina dopo pagina, di un libro che stiamo leggendo insieme, Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. Un libro che abbiamo visto, possiamo dire, sempre nuovo e sempre personale, perché gli spunti che ho tentato di offrire sono anzitutto legati a un'esperienza di fede e di vita che io credo si incontra e si riscontra in quella di tantissimi di voi. La volta scorsa siamo arrivati a parlare di come il mistero stesso della morte, che è questa soglia che deve essere attraversata per entrare nell'orizzonte dell'eternità, una prospettiva di eternità che abbiamo già visto riguarda l'uomo nella sua intima essenza, nella sua natura, come un essere costituito di anima e di corpo. Ma per gettare lo sguardo in questo orizzonte di eternità beata, occorre attraversare una soglia drammatica, quella morte come esperienza ineludibile, di fronte alla quale ogni individuo si trova a interrogarsi sulla consistenza della propria creaturalità, sulla propria fragilità. E vedevamo la volta scorsa come Gesù volontariamente ha scelto di vivere questa esperienza. E entriamo proprio con questo richiamo al tema di questa sera. Qual è il senso della morte che Gesù, Dio fatto uomo, ha voluto patire? E a volte pensiamo al grande mistero dell'incarnazione, che, lo ricordiamo, è uno dei due grandi misteri della fede cristiana. Accanto alla unità e trinità di Dio, abbiamo poi il mistero dell'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. E l'incarnazione realizza l'unione delle due nature. Fa già pensare che in questa unione ipostatica, dove le nature sono fuse ma non confuse, così insegna la dottrina cattolica, l'uomo assume la natura umana nella prospettiva di una salvezza. Sappiamo che si tratta di riparare quella macchia che è stata portata dall'uomo stesso, che nella sua fragilità ha usato male la libertà, di cui è stato dotato da Dio come dono eccelso fin dalle origini. Nel peccato delle origini, lo vedremo, l'uomo ha riletto il dramma della propria condizione, laddove la propria fragilità di creature esposte al peccato sembra in contrasto con i desideri di bene più profondi nel cuore dell'uomo. È un po' come se l'uomo di sempre avesse sperimentato, ma penso anche alla cultura pagana dell'antichità, alla filosofia greca, ai grandi poemi omerici, si vede come sempre l'uomo si è interrogato con ansia e inquietudine su questa sorta di distonia. Il cuore desidera il bene, il bello, la verità e la giustizia, e poi la vita dell'uomo sembra contraddire tutto questo. Allora, di fronte a questa prospettiva di fragilità, ci si chiede: ma l'uomo non può essere stato creato e pensato così da Dio? E allora ecco che andiamo a rivedere come nella Genesi Adamo ed Eva rappresentano l'uomo secondo il progetto originario, un uomo che è in grazia, in amicizia con Dio, un uomo che non è votato alla sofferenza, alla fatica, alla malattia, alla vecchiaia e alla morte come la conosciamo noi oggi. Ma per salvare l'uomo dalle conseguenze del peccato originale non bastava l'incarnazione, era cioè necessario che questa unione del divino con l'umano andasse fino in fondo, fino al punto in cui, come vedevamo la volta scorsa nella lettera ai Filippesi capitolo 2 versetti 5 e 11, Cristo scegliesse di farsi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E questa morte, così misteriosa, così scandalosa per coloro che al tempo dell'ebraismo, ecco, tradizionale, non immaginavano certo che un Dio che era talmente lontano da avere un nome che era impronunciabile, un Dio che era la trascendenza assoluta, distante dalla fragilità, dalla precarietà dell'esistenza umana, non poteva certo farsi uomo vicino agli uomini, men che meno morire. E invece noi sappiamo, nell'ottica della verità della dottrina cattolica, che Cristo si è fatto uomo condividendo tutto con l'uomo fuorché il peccato. Allora vediamo in che modo Gesù, che è il Figlio di Dio, ci libera dalla morte. Anzitutto dobbiamo dire che la morte e la resurrezione di Gesù liberano l'uomo dal peccato e dalle sue conseguenze, nel senso che vengono come ripristinate, ricreate quelle condizioni di amicizia e di alleanza con Dio che i nostri progenitori, a causa del peccato originale, avevano perso. Viene come infranta l'alleanza con Dio quando viene trasgredito il suo comando, ma soprattutto quando la disobbedienza germina in un terreno che anzitutto è fatto di sfiducia. Per questo motivo anche San Paolo parla di Gesù come un nuovo Adamo, perché viene a rimediare all'errore, al peccato compiuto da Adamo in origine. La prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, dice infatti: poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, perché tutti hanno ricevuto come conseguenza del peccato originale compiuto da Adamo il fatto di essere votati alla morte con tutte le note di drammaticità che abbiamo visto nelle scorse puntate, così tutti, dice San Paolo, riceveranno la vita in Cristo. Il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Cristo, divenne spirito datore di vita. Qui ci sono tantissimi temi che ovviamente potremmo sviluppare, no? Evidenziando, l'ho accennato anche in apertura, la stretta relazione tra l'incarnazione e la redenzione. E quindi come Cristo incarnandosi favorisce, apre, prepara la redenzione dell'uomo. Ma è fondamentale richiamare almeno una verità essenziale. Gesù si è fatto uomo per riconciliare in sé l'umanità e la divinità. Proprio immaginate come una figura plastica. Nell'abbraccio di Dio ci stavano i nostri progenitori, Adamo ed Eva, che a un certo punto fuggono, rompono questa alleanza, questa amicizia, al punto che dopo il peccato originale, ricordiamo che Dio si mette a cercare Adamo. Dove sei? Mi sono nascosto perché ero nudo. Quindi Adamo fugge da Dio. E cosa fa Gesù, che è il Verbo di Dio, per riconciliare, per unire nuovamente l'umano e il divino? Si incarna e quindi in se stesso compie questa riconciliazione. In questo modo l'uomo viene liberato dalla condanna che su di lui gravava fin dai tempi del peccato originale. Qui giova leggere alcuni versetti dal capitolo 3 della Genesi. So qual è il rischio che si corre quando si legge una pagina come questa. Uno dice: ma sì, so già com'è andata il peccato originale quando Eva ha preso la mela. Allora, intanto non c'è nessuna mela, lo vedremo nel testo del peccato originale, ma poi, essendo parola di Dio, una parola viva. Allora potrebbe essere bello che per una volta ci mettessimo in ascolto di questa parola, anche se sappiamo i contenuti dell'episodio, per vedere che cosa Dio può donarci attraverso la sua parola viva, capace di discernere i pensieri del cuore, di scrutare le profondità dell'anima. Questo è l'insegnamento della Scrittura sulla parola di Dio. Allora lo rileggiamo insieme. Dal versetto 13 in avanti del capitolo 3 della Genesi: il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Si è appena compiuto l'evento tragico del peccato originale. Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora Dio disse alla donna: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Ecco, queste sono le conseguenze del peccato originale. Moltiplicherò i dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Col sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai. L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio li scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Questo è un brano molto molto complesso, ci sarebbe veramente tanto da dire. Questa cacciata che spesso abbiamo letto come una punizione, proprio nell'ottica di quest'ultimo versetto, si capisce meglio che in realtà è stato un modo quasi per cautelare l'uomo dalle conseguenze della sua colpa. Nel giardino c'era anche l'albero della vita eterna. Se l'uomo avesse mangiato di quest'albero, si sarebbe come cristallizzato in una situazione di inimicizia con Dio. Allora Dio, proprio per tutelare l'uomo, per dargli l'opportunità, la possibilità di riconciliarsi, fa in modo che venga allontanato. E poi guardate come due realtà così belle della vita umana sono drammaticamente segnate dalla sofferenza e dal dolore, il lavoro dell'uomo e la maternità della donna. Sappiamo che i primi 11 capitoli della Genesi hanno un approccio eziologico alla storia umana, cioè cercano le cause, le origini di quella che è la condizione umana, per cui l'uomo percepiva come contraddittorio, no? Questo insieme di bene e di male, per cui è bene partorire figli, ma è un dolore grandissimo per la donna che mette al mondo un bimbo. È bene lavorare perché l'uomo riesce a trasformare il mondo che lo circonda, ma quanta fatica costa il lavoro? Perché tutto questo? E poi la morte, quando è così bello per l'uomo vivere, è così naturale per lui mantenersi nell'esistenza. Allora l'uomo che si interroga di fronte a questi aspetti contraddittori, capisce che ci deve essere stata una colpa originaria. È molto interessante quando Dio dice all'uomo: polvere tu sei, in polvere tornerai, perché sei stato tratto dalla terra. Beh, Adamo vuol dire proprio tratto dalla terra, ma cosa è stato tratto dalla terra? Il corpo dell'uomo. Ricordiamoci che l'uomo è fatto di corpo e anima. Nella creazione Dio alita nell'uomo uno spirito di vita, no? Questa Ruah che porta una vita divina nell'uomo, è l'anima immortale. E allora in realtà questa condanna non colpisce l'intera persona, anche se è drammatica la separazione tra il corpo e l'anima, ma soltanto il corpo tornerà nella polvere. E poi abbiamo visto che vengono vestiti e cacciati appunto da questo giardino. Questo testo biblico, che veramente vi consiglio di leggere, di meditare, perché poi rende ragione anche delle fatiche, delle sofferenze della nostra vita quotidiana, di ogni giorno, tra le conseguenze più gravi del peccato originale, oltre ovviamente aver perso l'amicizia e la grazia di Dio, indica la morte. Una morte che è intesa come un'esperienza segnata dalla sofferenza, dall'inquietudine, dalla drammaticità. Ora, Cristo ha vinto la morte e ha liberato l'uomo da questa che era un po' la nemica del progetto originario del Creatore. Anzi, con la morte e la resurrezione di Gesù, la morte si trasforma per l'uomo in sorgente di benedizioni, perché il cristiano sa che bisogna morire a se stessi ogni giorno, gradualmente, per aprirsi a questa prospettiva di ulteriorità, che è appunto la porta che si spalanca sulla vita eterna. Siamo stati liberati dalla morte, nel senso che siamo finalmente liberati dalla paura della morte, perché Cristo, come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 2, ha ridotto all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. E liberato così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Ecco, quindi in che senso Gesù ci libera dalla morte? Non eliminandola del tutto, ma facendo sì che essa non sia più la parola fine, bensì una porta che si apre sull'eternità. Il demonio aveva introdotto la morte, possiamo dire, come causa remota, perché aveva sedotto la donna e l'aveva portata a peccare, e la conseguenza era stata la morte, anzitutto la morte dell'anima, perché si era compiuto un peccato gravissimo nei confronti di Dio. È per quello che Gesù, quando nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, versetto 44, parla del diavolo, lo indica come omicida fin dal principio. Non è tanto il riferimento, a mio parere, all'omicidio che viene compiuto da Caino ai danni di Abele, capitolo 4 della Genesi, il primo omicidio della storia. È un fratricidio, quindi una cosa gravissima, ma parla di un omicida fin dal principio, riferendosi alla morte dell'anima che viene provocata dal peccato originale. Ancora possiamo dire che questa porta che si apre sull'eternità non è semplicemente una prosecuzione della vita, non è come un essere resuscitati, lo vedremo, ma una beatitudine senza fine. Una pienezza di vita nuova e la resurrezione di Gesù, vero uomo come noi, ci dice infatti che anche noi possiamo risorgere, accogliendo quell'invito che Cristo stesso ci fa quando ci chiama a seguirlo dicendoci: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco che già in queste parole che Gesù ha rivolto a Marta e a Maria che piangevano la morte di Lazzaro, capitolo 11 di Giovanni, Gesù sta dicendo che non è venuto a togliere la morte come realtà ormai propria della esistenza umana, ma a togliere le conseguenze negative che questa morte aveva per l'uomo, perché nella sua drammaticità, nella sua ineluttabilità, nell'essere la fine della vita, le porte del paradiso non erano ancora aperte prima che Cristo operasse la redenzione, l'uomo giaceva schiavo del peccato e delle sue conseguenze. E la teoria cattolica, la dottrina spiega che esisteva il cosiddetto limbo dei patriarchi, dove giusti e ingiusti aspettavano che ci fosse un giudizio da parte di Dio. Certo, coloro che avevano rifiutato Dio e peccato gravemente potevano già essere considerati come coloro che nello Sheol, cioè nel regno dei morti, ricevevano già la punizione per una vita così offensiva, così peccaminosa, ma nella maggior parte dei casi il mistero rimaneva il destino dei giusti. Se non era ancora aperto il paradiso, come si poteva fare? Ecco perché poi Cristo nel Sabato Santo scende agli inferi per liberare coloro che aspettano questa redenzione. Ed è bello come in tanti dei dipinti della tradizione cristiana si vede come il primo tirato fuori dagli inferi, è proprio Adamo con questa barba lunghissima che dice da quanto tempo aspettava questa liberazione. Ora, se si vince la paura della morte, ci si apre una vita nuova, già adesso, che impedisce di ridurre all'orizzonte terreno le speranze del cristiano. Non possiamo limitarci a questa vita, cari amici, ma questo è abbastanza evidente per chiunque di noi si accorga che l'annuncio che Gesù ha portato cambia radicalmente il modo di vivere la vita presente. Ricordate il ricco stolto che si sente dire, capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita. E com'è possibile legarsi ai beni della vita terrena, alla materialità, alla ricchezza, quando in realtà viene aperto un orizzonte che va ben al di là di questa prospettiva terrena che è la nostra vita quotidiana, attraverso la vita eterna. Ma poi la liberazione dalla morte, ma anche no, dal timore che essa causa in noi, non riguarda soltanto la persona che avanza inesorabilmente giorno per giorno verso la fine dell'esistenza, ma riguarda anche una liberazione da quell'angoscia che ci prende nel pensare ai nostri cari defunti, perché di fronte alla prospettiva della vita eterna, di fronte alla prospettiva della redenzione operata da Cristo, anche i nostri cari non sono persi nel nulla. È un dramma quando accade di perdere una persona cara e accorgersi che molti pensano che non ci sia più nulla. E io mi sono trovato con la prospettiva di scegliere un po' da che parte stare, quando mi è capitato di perdere mio fratello gemello e avevo 23 anni in un incidente di moto, e quella fede che avevo sviluppato passo passo nella vita eterna ha dovuto confrontarsi con un dolore concreto. Un'esperienza limite che andava a toccare proprio nel cuore la sostanza, la veridicità della mia fede. E anche recentemente, quando ho perso mio papà e, a causa del virus durante questa pandemia, nelle scorse settimane mi sono trovato persone che mi dicevano: Ma tanto ormai non c'è più nulla. E mi dispiace per tua madre che non ha potuto stargli vicino perché nei reparti ospedalieri dove si curano coloro che sono affetti dal virus, sapete che è inaccessibile per i parenti il reparto andare a visitare i propri cari, portare una parola di conforto, non si vedono più. E qualcuno mi ha detto: Mi spiace che tua mamma non ha più visto il papà. E io mi sono sentito di dire a questa persona: ma guarda, noi cattolici in realtà crediamo che non è la fine la morte, è semplicemente una separazione momentanea. E mi ha fatto molto riflettere come questa stessa persona mi ha detto: ma forse potresti suggerire a tua madre delle pratiche, no, di psicologia del lutto che possono recare consolazione. Ho detto: ma tipo cosa? Beh, ad esempio è molto utile fare finta che la persona ci sia ancora scrivendole una lettera, come se la potesse leggere. E questa cosa alleggerisce l'anima di chi è nel lutto, di chi. Però la persona non c'è più, però intanto fa bene. E io ho detto: ma cosa mi stai dicendo? Ma se questa persona non c'è più, mi sembra abbastanza sciocco scrivere una lettera a qualcuno che non può leggerla. O forse mi stai dicendo che è talmente radicato in ciascuno il desiderio di non perdere per sempre il rapporto con i propri cari, che anche chi nega la sopravvivenza eterna dell'anima si trova poi in realtà a percorrere in modi diversi delle strade che quella verità continuano a ribadire. E quindi però dobbiamo andare al nucleo del problema, cioè perché Gesù, che è il figlio di Dio, affronta il dramma della morte? Poteva benissimo evitare la morte. Essendo vero Dio e vero uomo, avrebbe potuto in sé fare a meno di affrontare l'esperienza dolorosa e drammatica che segna la vita terrena, ma per noi egli ha scelto di non sottrarsi alla morte. E quando pensiamo all'assunzione al cielo di Maria, guardate questo dogma del 1950, dove Pio XII parla di conclusione della vita terrena, e dopodiché c'è l'assunzione al cielo, è come dire, la Madonna non è morta come moriamo noi, la Madonna, potremmo dire, muore come sarebbe morto Adamo se non avesse peccato, e muore nel senso che termina il cammino terreno ed entra nella realtà del paradiso. Anche l'arte rappresenta una sorta di dormizio Marie, la dormizione di Maria, no? Come dire, si è come addormentata per risvegliarsi in paradiso, assunta in anima e corpo, quindi è la primizia dei risorti, anticipa il nostro destino eterno. Insomma, potremmo dire, ma la Madonna non ha vissuto l'esperienza della morte come la viviamo noi. E invece Cristo sì. Questo dobbiamo avere ben chiaro, cari amici. Cioè il fatto che il Verbo incarnato decida liberamente per noi di non sottrarsi alla morte di croce, è qualcosa di eclatante, considerando il fatto che, ad esempio, la Madonna questa morte non ha affrontato. Perché ha dovuto egli stesso morire per liberare l'uomo dalla morte, ma non poteva semplicemente compiere un miracolo più grande degli altri. In fondo, Dio è onnipotente, non poteva restituire l'immortalità a ogni uomo, diremmo noi schioccando le dita. Certo che avrebbe potuto, perché nulla è impossibile a Dio, ma non ha voluto. Anzi, possiamo dire proprio che Gesù ha dimostrato con la propria morte la verità di quelle parole che al capitolo 15 di Giovanni ci dicono che cos'è il vero amore. Gesù dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E Gesù queste parole le dice, l'ultima cena, secondo Giovanni, e poi le mostra nel concreto, dando la vita per noi che siamo i suoi amici. Proprio l'accettazione volontaria di Cristo muta il significato della morte, come afferma anche il Catechismo al numero 1009. L'obbedienza di Gesù ha trasformato la maledizione della morte in benedizione. Cioè la morte, possiamo dire noi, che era conseguenza del peccato originale, diventa una benedizione perché apre per l'uomo le porte del paradiso. Questa non è la sede per sviluppare tutte le riflessioni che si potrebbero fare legate alla teologia della croce, indagando come e perché il sacrificio di Cristo in qualche modo ha riparato il peccato originale dell'uomo, ma è certo un dato. Se Gesù ha offerto la propria vita per noi, allora nei fatti si è dimostrato il nostro miglior amico, capace di un amore gratuito, totale, come forse nessuno dei nostri amici ha mai compiuto per noi. Quando i genitori ti dicono: ho dato la vita per te, e non lo dicono al modo di Cristo, Cristo è morto per te. Ma ovviamente un'obiezione, no? Potrebbe nascere, uno potrebbe dire: ma perché è morto per me? Cristo è morto 2000 anni fa, io non c'ero, e quando un Nazareno che diceva di essere Dio è stato crocifisso sul Golgata, che è una collina poco distante da Gerusalemme, io non c'ero. Questa potrebbe essere l'obiezione dell'uomo della strada, no? Dell'uomo comune. La morte di Cristo in croce è un grande mistero, però è un fatto storico. Questo è un fatto molto interessante. Un evento storico confermato da fonti interne ed esterne alla Bibbia, e talmente circoscrivibile che gli studiosi giungono a individuare la data più probabile, il 7 aprile dell'anno 30. Poi la tradizione dice il 33 perché sono 33 gli anni di Cristo, ma andando a rivedere poi i calendari, con la precisione della storiografia moderna e contemporanea, si arriva a dire 7 aprile dell'anno 30. E un fatto storico così preciso, così determinato che risulta anche lo spartiacque della storia dell'umanità, tanto che ancora oggi contiamo gli anni da quell'avvenimento. Siamo nel 2021 perché 2021 anni fa, secondo la cronologia universale, è nato Cristo. E questo è un avvenimento decisivo. E decisivo perché? Perché attraverso di esso Gesù ha liberato l'umanità dalla morte, aprendo proprio le porte della vita eterna, un avvenimento che ci riguarda perché ha avuto e continua ad avere conseguenze universali su tutti gli uomini di tutti i tempi, perché a tutti è data la possibilità della resurrezione alla vita eterna, proprio in virtù della morte e resurrezione di Gesù. E certo che allora capiamo perché alcuni paesi che hanno sviluppato un pensiero laicista, materialista, relativista, modernista, anticristiano, vogliono cambiare la datazione. Quando io penso in Francia, dove anni fa si faceva una battaglia per togliere la definizione di prima di Cristo, dopo Cristo, e volevano mettere era volgare, era comune, ma a me, ecco, volgare sembra il tentativo di negare la verità. Direi così, proprio una sorta di truismo, un'ovvietà. Gli anni si contano da quando Cristo, che è il Dio fatto uomo, è nato perché ha diviso in due la storia umana, prima e dopo la redenzione. Ma ripeto, uno potrebbe dire: ma cosa c'entra questo con me oggi? Cosa c'entra con la mia individualità? E come poteva Gesù 2000 anni fa morire per me se neppure mi conosceva? Ecco, queste un po' sono le obiezioni di chi fatica a entrare nella prospettiva di un Dio che, pur essendo morto in quel 7 aprile dell'anno 30 che ho poco prima citato, muore in realtà per gli uomini di tutti i tempi. E a questa domanda lecita io vorrei rispondere con quanto scrive Maria Valtorta, che asserisce che Gesù l'avrebbe rivelato invitandolo a scrivere, no, quello che voleva si conoscesse del Vangelo in un'opera ponderosa che è stata prima intitolata Il poema dell'uomo Dio, poi L'Evangelo come mi è stato rivelato. Non è un'opera che la Chiesa ha riconosciuto come ispirata, però la sua lettura è permessa, no? E intendendola come opera umana, per quanto edificante. Beh, io la cito come testimonianza umana, presentando un passaggio che mi ha sempre molto, molto colpito. E quando il Signore rivela alla Valtorta quanta atroce sofferenza avesse patito poco prima di spirare in croce. In questa opera immensa, migliaia e migliaia di pagine scritte con una sapienza profondissima, la Valtorta si trova a riferire molti particolari che nel Vangelo non ci sono. Nulla viene aggiunto, bisogna essere onesti, ma sono particolari che forse all'uomo di oggi, no, poco avvezzo alle vicende della Terra Santa di 2000 anni fa, servono per rappresentarsi meglio la scena, per immaginarsi le cose, per scendere un po' più nella profondità. E questo soprattutto in momenti decisivi della storia della salvezza, come la morte in croce di Cristo. Ecco cosa rivela il Signore, secondo la Valtorta, di questi ultimi istanti della sua vita terrena. Nelle inumane torture, per non urlare il mio dolore di uomo e per non disperare di Dio e dire che egli era troppo severo e ingiusto verso la sua vittima, io mi sono ripetuto i vostri nomi. Ecco, Gesù dice: io nel momento in cui stavo per morire, per non urlare il mio dolore di uomo, mi sono ripetuto i vostri nomi. Io vi ho visti, io vi ho benedetti da allora. Quindi sta parlando degli uomini che erano viventi anche in quel momento, quando scrive la Valtorta nel XX secolo. Da allora vi ho portati nel cuore. E quando è venuta la vostra ora di essere sulla terra, cioè di essere concepiti, io mi sono proteso dai cieli ad accompagnare la vostra venuta. È bello come se Gesù con le sue mani quasi depositasse l'anima creata da Dio nell'embrione, no? Nel momento del concepimento. Da allora vi ho portati nel cuore, quando è venuta la vostra ora di essere sulla terra, io mi son proteso dai cieli ad accompagnare la vostra venuta. I miei occhi morenti vedevano, insieme al volto straziato della mamma mia, perché la Madonna era ai piedi della croce, i vostri visi amorosi, voi che meritate il sacrificio di un Dio. Ecco, questi, cari amici, per me sono dei riferimenti che tolgono il fiato, no? Il pensiero che Gesù è morto davvero pensando a ciascuno di noi, ripetendo i nostri nomi. Cioè, non ha detto Diego una volta per tutti coloro che avrebbero portato questo nome, ma ha detto Diego pensando proprio a me. E io direi che se noi provassimo a pensare a un'esperienza del genere, no, concretamente, ma non potremmo stare in pace. Ma voi immaginate, so che c'è il telegiornale, all'ora di pranzo fanno vedere un filmato drammatico, hanno ripreso in diretta, non so, il martirio di un cristiano, no? Un cristiano che viene ucciso da un fondamentalista islamico e hanno ripreso questa scena e voi la guardate distrattamente, come magari si guardano tante cose che oggi la televisione rifila ogni giorno, quasi abituandoci al dolore, alla drammaticità, alla morte. E prima di morire quest'uomo dice: muoio per, e dice il tuo nome. Ma tu ovviamente ti fermi, ma come fai a continuare a mangiare senza chiederti: ma come fa a dire il mio nome? Ma perché? Ma dico nome per dire nome e cognome, come uno dicesse muoio per Diego Manetti, io butto giù la forchetta e dico: ma questo come sa chi sono io? Ma perché ha detto così? Io sono certo che chiunque di noi si trovasse in questa situazione, no? Magari inverosimile, ma mi interessa che comprendiate il senso, non troverebbe pace finché non potesse conoscere meglio chi è costui che ha detto muoio per te. Perché se ha pensato a noi in quell'ultimo momento così drammatico, vuol dire che un rapporto con noi specialissimo esiste. Da quando Gesù affronta la morte in croce, nessuno di noi, nessun uomo è più condannato alla disperazione quando si avvicina il momento della fine. Perché se Gesù stesso ha attraversato quella porta vivendo il dramma del termine terreno dell'esistenza, allora ogni uomo può sentirsi confortato al pensiero di non essere solo dinanzi a questo mistero grande e terribile. Gesù ha affrontato questo mistero, Gesù sulla sua carne ha vissuto la morte che ogni uomo è chiamato a vivere. Se Cristo muore come noi e poi risorge, è per mostrare fino all'ultima goccia di sangue quanto profonda sia la sua unione con noi, che pure dopo la morte potremo risorgere a vita nuova. Ora è chiaro che comprendere quanto la morte di Cristo sia un evento salvifico per me implica un cambiamento di prospettiva. Quindi, mentre da una parte diciamo è un avvenimento storico preciso la morte di Cristo, no? Nel 30 d.C. muore quest'uomo crocifisso alle porte di Gerusalemme, ma questo evento riguarda te oggi. Come? Com'è possibile? Beh, occorre guardare a questa morte in croce di Gesù, un evento capitale per l'umanità intera di tutti i tempi, come un avvenimento contemporaneo. E qui bisogna guardare l'insegnamento di un filosofo a me molto caro, che spesso cito in queste nostre conversazioni, che è il filosofo danese Søren Kierkegaard. Nella prima metà dell'Ottocento, questo filosofo cristiano luterano afferma che il diventare cristiani significa in verità diventare contemporanei di Cristo. In rapporto all'assoluto, scrive il filosofo, non c'è infatti che un solo tempo, il presente. Per colui che non è contemporaneo con l'assoluto, l'assoluto non esiste affatto. E poiché Cristo è l'assoluto, è facile vedere che rispetto a lui è possibile solo una situazione, quella della contemporaneità. Ecco, così scrive Kierkegaard nell'esercizio del cristianesimo, una delle opere della sua maturità del 1851. Ed è importante cogliere il valore di questa contemporaneità. Cosa vuol dire essere contemporaneo? Ma provate a immaginare una situazione. La storia di Giorgio, un ragazzino di 14 anni, studente di prima superiore, con una vita come tutti i ragazzi della sua età possono avere, no? Ma con due particolarità, che è figlio di una ragazza madre e non ha mai conosciuto il nonno, che è morto in una miniera in Belgio quando Giorgio era ancora piccolo. Ora, un giorno la madre è fuori casa per lavoro e Giorgio, non sapendo che fare, si mette a curiosare nella sua camera e trova un diario. La curiosità vince subito e scopre che è il diario del nonno, di quel nonno che sa essere morto in una miniera in Belgio quando lui era piccolo piccolo, ma di cui non sapeva nient'altro. Le pagine cominciano a raccontare fatti che risalgono a circa 2 anni prima della sua nascita. Il nonno scopre che si chiamava Francesco, scrive che la vita in miniera è durissima, ci si alza alle 4 del mattino dopo aver dormito in baracche con almeno altri 20 compagni di squadra, si scende nei pozzi, che sono situati a diverse profondità nelle cavità del ventre della terra, si lavora ore e ore con illuminazione scarsa, in condizioni di sicurezza molto precarie, sempre col rischio di qualche esplosione per i gas sotterranei o per il cedimento delle gallerie che, come arterie sbilenche, bucano e attraversano il corpo di quella terra in profondità. Quindi Giorgio, no? Immaginando un 14enne, si mette a leggere le vicende del nonno, sempre con più curiosità, no? E scopre cose che non sapeva, e scopre che, ad esempio, pochi mesi dopo l'inizio della scrittura di quel diario, c'è una giornata particolare che è segnata da un misto di emozioni, perché giunge una lettera dall'Italia che porta al nonno la gioia di sapere che la figlia Maria, che è la mamma di Giorgio, era rimasta incinta e quindi lui sarebbe diventato nonno. Ma insieme la tristezza di sentirsi dire che il padre del bambino non vuole assumersi responsabilità e l'ha abbandonata. Allora qui Giorgio capisce: allora io non ho un papà perché mio padre mi ha abbandonato, mia mamma era da sola e ha scritto a suo papà, cioè al mio nonno, raccontando della sua esperienza. A quel punto Giorgio capisce che è lui quel bambino che la mamma aspettava. E legge che il nonno si trova come lacerato da una scelta, manca ormai poco alla pensione e Francesco non desiderava altro che smettere con quel lavoro durissimo, tornarsene in patria, abbracciando la moglie e la figlia che non vedeva da così tanto tempo. Ma adesso che ha saputo che Maria è incinta e che nessuno provvederà a lei e al nascituro, e si chiede come faccio a tirarmi indietro? In fondo la paga è buona, tutto sommato pensa, ho ancora abbastanza energia per lavorare. Insomma, decide di chiedere al suo capo di chiudere un occhio sull'età, su quella tosse che non lo abbandona ormai neppure di notte, e di lasciarlo lavorare ancora per almeno un anno, così da mettere da parte quanto occorre per quel nipotino che presto nascerà. Il capo accetta questa proposta e Francesco descrive pagina dopo pagina una vita in miniera che si fa sempre più dura per lui che è malato e abbastanza in là negli anni, però al tempo stesso una vita che si fa dolce perché è scandita dalle notizie che intanto arrivano dall'Italia e che a poco lo accompagnano verso la nascita di quel nipote. Finalmente il piccolo Giorgio viene alla luce all'alba del 24 maggio e Francesco nota che c'è un po' la mano della provvidenza in questo bambino che, figlio di una donna che si chiama Maria, nasce proprio nel giorno che è dedicato a Maria Ausiliatrice. E Francesco non sta più nella pelle, ormai manca poco alla pensione e quasi non ce la fa più ad aspettare quando in una busta sua figlia gli manda la foto del bambino il giorno del battesimo, no? Pochi giorni dopo che è venuto alla luce. E Giorgio nota che della foto però nel diario non c'è traccia, no? Perché sperava di rivedersi piccolo piccolo, ma nel diario non c'è. Passano le settimane e così si arriva alla fine di agosto, quando è previsto l'ultimo giorno di lavoro per Francesco e poi il ritorno in patria. E quel giorno, legge nel diario, il nonno si alza con una gioia che mai aveva provato prima, no? Trovando persino piacevole la sveglia che rumorosamente chiamava al lavoro tutta la baracca alle 4 del mattino. Ma lui era già sveglio perché vuol cominciare presto quella giornata che sarà l'ultima di una vita passata in miniera, una vita di sforzi e di fatiche che nell'ultimo anno sono stati però ricompensati dalla gioia di sapere che ogni ora passata là sotto era un aiuto, un sostegno per il nipotino. E Francesco aveva fatto questa scelta di lavorare un anno in più solo per aiutare la figlia con questo nipotino che stava per nascere. E Francesco annota all'alba di quel 31 agosto che per quell'ultima giornata vuole scendere in galleria con un amico speciale, porterà con sé la foto del piccolo Giorgio nel giorno del suo battesimo, no? Per mostrare orgogliosamente quel nipotino e ai suoi compagni di lavoro, ma anche per portarlo con sé nel ventre di quella terra buia che per tanto tempo l'aveva ospitato. Ecco, il diario finisce qui. E Giorgio nota che nelle pagine successive, completamente bianche, però infilato un articolo di giornale ripiegato con cura. Lo apre con delicatezza, pare assai vecchio, e riporta la notizia del crollo di una miniera in Belgio, proprio quel 31 agosto. E proprio quella galleria in cui suo nonno era sceso, portando con sé la foto del piccolo Giorgio, adesso capisce perché non l'ha trovata nel diario. E non vedendo l'ora di ritornare a casa e abbracciare proprio quel nipotino, per cui aveva fatto sacrifici così duri in quell'ultimo anno di vita. E a quel punto Giorgio si mette a piangere, versa lacrime che sono lacrime di dolore, ma anche di gratitudine, perché sapeva che il nonno era morto in bignera in Belgio quando lui aveva pochi mesi, ma adesso scopre che suo nonno è morto per lui. In quel tempo passato, leggendo pagina dopo pagina il diario del nonno, ha come rivissuto al presente la vita del nonno fino alla sua morte. Ed è come se quell'evento che pensava di conoscere si rivelasse adesso in una prospettiva tutta nuova, come se per la prima volta accadesse, perché quella morte diventa una morte per lui, quell'evento si fa a lui contemporaneo. Ecco, io preciso che questa è una storia di fantasia, no? Però ci aiuta a capire cosa vuol dire la contemporaneità rispetto a Cristo. Dobbiamo porci come se quell'evento accadesse adesso, dobbiamo rivivere adesso la consapevolezza che Cristo, nel momento della morte, ha pronunciato il nostro nome. E questa consapevolezza ci spalanca la contemporaneità dell'evento salvifico, della redenzione operata nel culmine della morte di Cristo. È un evento che c'entra con la mia vita, con la tua vita in questo momento, al di là della distanza temporale che ci separa da esso. E questo ovviamente ci permette di andare al fondo del valore per me della morte di Cristo. Gesù non ha semplicemente mostrato come morire con dignità e la sua morte in croce non è neanche soltanto l'esempio sublime di come dare la vita per gli amici. La sua morte c'entra con la mia vita, con la tua vita, perché apre la possibilità di accedere alla vita eterna. Non che prima della morte e resurrezione di Gesù con la morte si finisse nel nulla, ho già prima spiegato come si parla di una vita che proseguiva nel cosiddetto limbo dei patriarchi, non è il limbo dei bambini, quello è stato oggetto poi di ripensamento ed era un'opinione teologica. Un luogo dove si pensava finissero i bambini morti senza battesimo. Poi l'argomento è stato approfondito e rivisto, e la commissione teologica ha, insomma, assunto una posizione molto più aperta alla misericordia e alla speranza, dicendo che dobbiamo credere e sperare che questi bambini, per la misericordia di Dio, siano salvi in paradiso. Ma tolto il limbo dei bambini, rimane il limbo dei patriarchi, un luogo che era ai confini dell'inferno, era il lembo superiore, possiamo dire, della voragine infernale. Da cui limbo, e cui erano destinati quanti, pur giusti, non potevano accedere al paradiso, perché il paradiso era stato chiuso col peccato originale. E Gesù ha dovuto scendere agli inferi nel sabato santo proprio per portare la buona novella a quanti diversamente non avrebbero potuto accedere al paradiso, come sintetizza nei numeri 636 e 37 il Catechismo. Con l'espressione Gesù discesa agli inferi, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il simbolo, cioè il credo, professa che Gesù è morto realmente, che mediante la sua morte per noi, egli ha vinto la morte e il diavolo, che della morte ha il potere. Cristo morto, con l'anima unita alla sua persona divina, è disceso alla dimora dei morti. Egli ha aperto le porte del cielo ai giusti che l'avevano preceduto. Ora, credere alla resurrezione di Gesù è il cuore della fede di un cristiano, come ben ribadisce anche San Paolo quando nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi dice proprio che se non esiste resurrezione, Cristo non è risuscitato, ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. Ecco, questa è la prospettiva che interessa a noi. Noi non crediamo soltanto alla resurrezione di Cristo, ma che nella sua resurrezione si apra una prospettiva di vita per noi. Questo fa capire perché la resurrezione di Cristo è essenziale nella fede cristiana. E non ci si può limitare a guardare alla vita terrena di quello che può essere considerato il più grande profeta di tutti i tempi o un maestro di sapienza. No, no, i Vangeli si formano dai racconti originari che anzitutto si concentrano su questa buona novella, cioè sull'Euangelion, il buon annuncio, il Vangelo. Non solo che Dio si è fatto uomo per noi, non solo che Gesù è morto in croce per noi, ma anzitutto che Cristo è risorto e in Lui anche noi possiamo risorgere, perché questa è la promessa cardine Giovanni 11:25, dice Gesù: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco che su questa promessa, che ben sintetizza il senso in cui Gesù ci libera dalla morte, cari amici, possiamo fare un momento di pausa nell'attesa di ricevere poi le vostre telefonate, che come sempre vi prego siano, ecco, brevi e in tema con quanto trattato. A tra poco. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, Buonasera. professor Manetti. Intanto auguro un buon Natale a lei e agli ascoltatori, anche un buon anno. Grazie. Intanto grazie anche per la catechesi, per la lezione, diciamo, di questa sera, perché è ricca di spunti. Ne volevo solo cogliere due perché sarebbero veramente tanti. Un chiarimento per capire meglio. E la seconda appunto proprio uno spunto di riflessione. Il chiarimento riguardava quando lei ha parlato appunto diciamo, del fatto che la morte è stata costituita dal diavolo, da Satana, e con Gesù la morte perde la sua potenza, diciamo così. Vorrei capire meglio questo aspetto, perché io penso che comunque la morte non si debba attribuire nessun tipo di potere, ecco, di forza, non di potere, scusi, di forza. In quanto proprio Dio è sopra la morte e quindi è già sconfitta nel nascere, quindi penso che non abbia una valenza di forza. E invece, non so se mi sia fatto capire quello che volevo dire. Certo, sì. E invece lo spunto è quella che è una cosa alla quale ho sempre pensato, e tra l'altro lei aveva affrontato in un'altra catechesi questo argomento, ossia che prima di Gesù ho sempre pensato che se la morte riguardi più una dormienza, un po'. Non come quella di Maria, ma una dormienza nel senso che tutte le anime prima di Gesù non hanno ricevuto quello che noi oggi chiamiamo il giudizio. Infatti Gesù stesso parla di Lazzaro dicendo che si è addormentato, gli apostoli non capivano e dice è morto. Addormentato perché la vera morte io penso che sia quella appunto del peccato e quindi della dannazione eterna, che è un po' associabile al primo dei peccati, quello del peccato originale. E quindi dopo Gesù poi si parla di morte proprio perché è con Gesù che si ha proprio la separazione e quindi la determinazione della salvezza eterna e quindi della vita o della dannazione eterna e quindi della morte. Spero di essere stato abbastanza chiaro perché è un po' articolato il discorso e non ho le sue competenze, però ecco, spero di essermi fatto capire. Grazie ancora, buon Natale e ascolto per radio e buon anno. Benissimo, grazie. Grazie per gli auguri che ricambiamo come grande famiglia di Radio Maria. Grazie per la domanda e l'osservazione. La domanda è molto, molto interessante. Quando si dice che il diavolo ha il potere sulla morte, e lo si intende in due modi questo potere, ben sapendo che è una potenza che nulla può rispetto alla onnipotenza di Dio. E quindi bisogna fare le debite proporzioni, per quanto la potenza di Dio sia incommensurabile rispetto al potere di qualunque creatura umana o angelica che sia. In che senso il demonio ha potere sulla morte? Il primo, in quanto è colui che ha introdotto la morte come esperienza drammatica, come causa remota, perché ha potuto indurre al peccato come colui che seduce. Quindi la libertà dei nostri progenitori ha svolto il ruolo decisivo nell'acconsentire a questa tentazione, ma il demonio ha potuto introdurre come conseguenza del peccato originale cui ha condotto i nostri progenitori proprio la morte. Si può dire che è stato la causa. Anche il libro della Sapienza dice che il demonio ha introdotto la morte per invidia. Qual era l'invidia? L'invidia era quella di aver visto nel cuore di Dio che il Verbo si sarebbe incarnato, avrebbe assunto una natura umana, non una natura angelica. L'invidia di vedere Adamo ed Eva che erano nell'amicizia, nella comunione con Dio. E questo andava rotto, andava sporcato. E per fare questo il demonio induce al peccato originale i nostri progenitori e tra le conseguenze più gravi, appunto, la morte. Allora possiamo dire che Satana ha avuto una sorta di potere sulla morte perché ha potuto introdurla, inducendo al peccato i nostri progenitori, nell'orizzonte dell'esistenza umana. Ma la cosa interessante è che ovviamente questo potere è soggiace alla permissione divina. Ma questo riguarda qualunque azione che il demonio può porre in essere nella vita dell'uomo. Tutto quello che il demonio porta come male, fisico, morale, spirituale, contro l'uomo, soggiace alla divina permissione. Come ci ricorda San Paolo, lettera ai Romani, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, anche le prove e le tribolazioni. Quindi, in questo senso, il primo potere sulla morte, il primo senso è il potere sulla morte del demonio. E il secondo, invece, è il potere che ha sugli uomini in virtù della paura della morte. Perché? Perché molti si sono lasciati soggiogare dal nemico in virtù o a causa di questo timore della morte. Perché se la morte è l'ultima parola, allora tanto vale godersi la vita. Se noi guardiamo, cari amici, all'esistenza del mondo contemporaneo, a questo mondo nuovo senza Dio, come ci dice la Madonna Medjugorje nel messaggio del 25 gennaio 1997, capiamo che l'umanità si fa abbindolare dal demonio, che per rendere più suadenti le sue offerte di beni materiali, di regni, di ricchezze, di potere e di piaceri, che cosa fa? Fa credere all'uomo che la vita sia tutta qua. Allora è evidente che se tu hai paura della morte come fine assoluta, perché la vera paura è quella, non è il dolore, dolore qualunque terapia antidolorifica fa sì che della morte neanche quasi ti accorgi, ma con la morte tu perdi tutto. E allora ecco che uno dice, ma se è così, tanto vale godersi la vita. E allora tutti quei beni che il demonio ti offre, ecco che diventano occasione di peccato e di schiavitù e di legame, perché come ci ricorda Gesù, capitolo 8 di Giovanni, chi commette il peccato diventa poi schiavo del peccato. Ecco, in questo senso penso che si possa parlare del potere proprio che Satana ha sulla morte come introduzione col peccato originale. E come morte temuta in quanto esperienza drammatica e fine della vita terrena, ma grazie a Gesù una fine che non è assoluta. E se dobbiamo pensare a come la Chiesa reinterpreta tutto questo, vale sempre il concetto della felix culpa, la colpa felice, perché come conseguenza del peccato c'è stata anche la necessità per l'umanità di essere redenta proprio da Cristo. Pronto? Pronto? Sì, Buonasera. pronto. Buonasera, professor Monetti. Come si chiama? Gerardo, io sono stato sempre un cattolico praticante. Sì, però ora, oggi, sull'esperienza del Covid, mi sono un po', diciamo così, ho messo un po' in discussione la mia fede, ecco, perché le volevo chiedere, ma sul potere di Satana, perché io sono convinto che esiste il potere di Satana, però da un mio amico che è testimone di Geova mi ha detto che questo è il tempo in cui Satana, diciamo così, ha ancora del potere sull'umanità, però verrà il momento che sarà, se non so, impedito per circa 1000 anni, e dopo sarà sconfitto per sé, cioè sarà per 1000 anni avrà ancora potere e poi sarà sconfitto per sempre. Volevo sapere da lei cosa ne pensa in merito e qual è la sua risposta, e anche perché a me vengono molti dubbi, come le dico, lei ha parlato del filosofo, chi di qua. E io ho capito il senso di tutto, Però non ne sono convinto fino in fondo, ha capito? Questo le vorrei chiedere. Se mi sa dare una risposta esauriente, la ringrazio, eh. Certo, grazie, grazie Gerardo per questa domanda. Ci provo, in realtà è una domanda doppia, nel senso che ci si mette in discussione sulla fede per l'esperienza della pandemia e del Covid. È evidente che quando si vive un momento di prova così drammatico ci si interroga. La scrittura attraverso i libri profetici ci fa vedere come il popolo eletto di Israele si è interrogato quando si è trovato prigioniero dei babilonesi, 70 anni di prigionia, di deportazione, di vessazioni, e allora ci si chiedeva: ma come? Ma noi siamo il popolo eletto e Dio ci ha abbandonati. Allora cosa facevano i profeti? Penso Ezechiele, Geremia, ricordavano al popolo di Israele che era già stato liberato da Dio. Ma vi ricordate quando eravate in Egitto, schiavi del faraone, Dio non vi ha forse liberati? Non avete forse attraversato il deserto, non siete arrivati nella terra promessa? Anche adesso dovete avere questa fiducia. Allora, prima cosa è giusto interrogarsi rispetto alla propria fede quando si è nella prova, ma anche fare memoria di quelle esperienze di amore di Dio che salva, di Dio che libera, di Dio che interviene, per cui a un certo punto uno dice: beh, ma un secolo fa c'è stata la spagnola, a un certo punto la spagnola è scomparsa come nulla, come è venuta, così se n'è andata. Ed era molto peggio del Covid odierno. Allora, perché non credere che Dio possa intervenire ed essere la vera risposta e la vera speranza, ben più di qualunque utile ed efficace vaccino per l'umanità che è bisognosa di salvezza e non soltanto di salute? E secondo, per quanto riguarda il demonio, beh, il suo amico testimone di Geova non fa altro che citarle quello che dice l'Apocalisse. L'Apocalisse ricorda come ci saranno due tappe del combattimento escatologico: nella prima il demonio verrà incatenato per 1000 anni all'inferno, nella seconda, dopo che verrà liberato per qualche tempo, verrà sconfitto per sempre dal Signore. È chiaro che questi due momenti si possono anche affiancare alla prospettiva di storia della salvezza che emerge dai messaggi di Medjugorje della Regina della Pace, che dice come la prima delle battaglie, quella della donna vestita di sole, vede il trionfo del suo cuore immacolato, la sconfitta del dragone infernale e finalmente quel tempo di pace è già promesso a Fatima. E dopo questo tempo di pace, 1000 anni evidentemente è una cifra simbolica, la regina della pace parla di un secolo di prosperità e di pace, ci sarà poi l'ultimo combattimento, quello in cui Satana lancerà l'ultimo assalto al mondo e alla Chiesa, e lì sarà Gesù stesso a riportare la vittoria definitiva. Il problema non è conoscere semplicemente questa dottrina, queste verità, ma come dice, di farle proprie. È un po' la prospettiva della contemporaneità. O entro con la mia vita nella verità di quanto ci stiamo dicendo, cari amici, o giustamente continuerò sempre a dubitarne, continuerò a farmi delle domande, anche magari fini, ragionate, intelligenti, ma saranno sempre questioni intellettuali. È un po' come parlare dell'amore senza innamorarsi. E invece qua bisogna fare un'esperienza, bisogna vivere questa fede in Cristo che risorge, e questo permette di trovare quel gusto di vita nuova che apre all'eternità già adesso durante questo cammino di vita terrena e quotidiana. Pronto? Pronto? Buonasera. Ascolti, noi sento sempre parlare, no? Quando si va a Gerusalemme, sono stato a Gerusalemme, il Santo Sepolcro, allora tutta quella via dolorosa che è stata terribile. Quando uno mi chiedeva: ma sarei a paura della morte, perché non dovrei averne? Se aveva avuto il mio divino maestro nel Getsemani, il testo dice, beh, tristezza, paura e angoscia, perché non dovrei averla io? Secondo, però, quando vai là e i greci dicono l'anastasis, allora vedi tutta un'altra cosa, capisci tutto un altro mondo. Era necessario che morisse. Quale prova avrebbe avuto che è veramente il Dio vivente? Questo è tutto. Se no sarebbe stato un filosofo come tanti altri. La realtà è che, ecco, lei ha detto prima, era volgare, ma quale era volgare, di che cosa, volgare di che cosa? L'annuncio, ma l'annuncio, la buona novella, La buona novella è semplicemente che ha vinto la morte in maniera constatabile, oggettiva. Ma lo possiamo vedere ancora adesso. Quella è la cosa straordinaria. Lo possiamo vedere ancora adesso. Quando si va nelle parti di rianimazione, no? Ci si hanno delle esperienze che sono straordinarie. Vedi gente in coma, che quando ne esce ti dice che è successo nella stanza a fianco. Cioè, ma come l'hai visto? Vedevo tutto dall'alto. Io ci ho lavorato, sono un medico in pensione di rianimazione. Avevo testimonianze, ma come fai a saperlo? L'ho visto e descrivevo tutto quello che era stato fatto. Fisicamente è impossibile una cosa del genere. Però quello lo raccontavano. Ed era vero, constatabile. Grazie per questo intervento, molto, molto interessante, tocca almeno due aspetti che possiamo brevissimamente approfondire. Intanto avere paura della morte, e Gesù stesso ha provato angoscia, perché non dovrei aver paura io? E qui mi permetto, ecco, due osservazioni. Intanto è molto bello vedere come, al di là del racconto evangelico, che mette in evidenza quella che può sembrare una paura umana dell'uomo Gesù di fronte alla prospettiva della morte, le riletture di tanti santi e mistici di epoca medievale e moderna ci aiutano a entrare in questo mistero. Penso alle visioni della beata Caterina Emmerich, che ci mostrano un Gesù che è in angoscia perché il demonio lo tenta con un pensiero: non potrai portare il peccato di tutta l'umanità sulle tue spalle. Cioè, come dire, gli uomini, molti, rifiuteranno il tuo sacrificio. Allora la vera angoscia di Cristo non era soltanto il dolore di Gesù, uomo che stava per affrontare una prova senza precedenti a livello umano, ma era anche l'angoscia di sapere quanti quel sacrificio redentivo non avrebbero accolto. E poi dico anche che un conto è avere paura, nel senso del timore, come è giusto avere per un'esperienza così, difficile da affrontare, e altro essere invece disperati. Ecco, penso che Gesù ci ha liberati da quella paura fatta di disperazione e ci ha permesso di avere un sacro timore di questo momento che apre poi all'incontro col Signore stesso. Per quanto riguarda le esperienze citate, è vero, testimoniano che c'è una vita dello spirito che va ben al di là della vita della carne, ma quando parliamo di resurrezione è una vita totalmente nuova. È una vita in cui, lo vedremo, la persona ricostituita in corpo e anima, corpo glorificato, anima immortale e ormai inserita nell'eternità secondo il giudizio che l'ha contraddistinta, è entrata in una vita nuova. È proprio questa vita nuova che sarà oggetto delle prossime conversazioni per entrare sempre più in questo mistero della vita eterna, che soltanto può gettare una luce nuova, carica di speranza e di gioia per quello che è il nostro cammino della vita odierna. Con questo, cari amici, concludo. Un saluto caro da parte di Diego Manetti a tutti voi, sempre con la richiesta di pregare per tutti i sacerdoti, in particolare per il Santo Padre. Alla prossima puntata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.